2. Una sorprendente e terribile responsabilizzazione. Uso improprio a fini distruttivi. Supponiamo che i problemi dell'autonomia dell'IA siano stati risolti. Non siamo più preoccupati che il paese di geni IA impazzisca e sopraffaccia l'umanità. I geni IA fanno ciò che gli umani vogliono che facciano e, poiché hanno un enorme valore commerciale, individui e organizzazioni in tutto il mondo possono noleggiare uno o più geni IA per svolgere vari compiti per loro. Avere tutti un genio superintelligente in tasca è un progresso straordinario e porterà a un'incredibile creazione di valore economico e miglioramento della qualità della vita umana. Parlo di questi benefici in grande dettaglio in Macchine di amorevole grazia. Ma non tutti gli effetti del rendere tutti superumanamente capaci saranno positivi. Può potenzialmente amplificare la capacità di individui o piccoli gruppi di causare distruzione su una scala molto più ampia di quanto fosse possibile prima, facendo uso di strumenti sofisticati e pericolosi che in precedenza erano disponibili solo per pochi eletti con un alto livello di abilità, addestramento specializzato e concentrazione. Come scrisse Bill Joy 25 anni fa in Why the Future Doesn't Need Stati Uniti, costruire armi nucleari richiedeva, almeno per un periodo, l'accesso a materie prime rare, anzi, effettivamente non disponibili, e a informazioni protette. Anche i programmi di armi biologiche e chimiche tendevano a richiedere attività su larga scala. Le tecnologie del XXI secolo, genetica, nanotecnologia e robotica, possono generare classi completamente nuove di incidenti e abusi, ampiamente alla portata di individui o piccoli gruppi. Non richiederanno grandi strutture o materie prime rare. Siamo sull'orlo dell'ulteriore perfezione del male estremo, un male la cui possibilità si estende ben oltre ciò che le armi di distruzione di massa hanno lasciato in eredità agli Stati-nazione, verso una sorprendente e terribile responsabilizzazione di individui estremi. Ciò a cui Joy sta facendo riferimento è l'idea che causare distruzione su larga scala richieda sia movente che capacità, e finché la capacità è limitata a un piccolo insieme di persone altamente addestrate, c'è un rischio relativamente limitato che singoli individui causino tale distruzione. Un disturbato solitario può perpetrare una sparatoria a scuola, ma probabilmente non può costruire un'arma nucleare o scatenare una pestilenza. In effetti, capacità e movente potrebbero anche essere negativamente correlati. Il tipo di persona che ha la capacità di scatenare una pestilenza è probabilmente altamente istruita, probabilmente un dottorato in biologia molecolare, e particolarmente intraprendente, con una carriera promettente, una personalità stabile e disciplinata e molto da perdere. Questo tipo di persona è improbabile che sia interessata a uccidere un gran numero di persone senza alcun beneficio per sé e a grande rischio per il proprio futuro. Dovrebbe essere motivata da pura malizia, intenso rancore o instabilità. Tali persone esistono, ma sono rare e tendono a diventare grandi storie quando si verificano, proprio perché sono così insolite. Tendono anche a essere difficili da catturare perché sono intelligenti e capaci, a volte lasciando misteri che richiedono anni o decenni per essere risolti. L'esempio più famoso è probabilmente il matematico Theodore Kaczynski, che sfuggì alla cattura dell'FBI per quasi 20 anni. Spinto da un'ideologia antitecnologica. Un altro esempio è il ricercatore di bioprotezione Bruce Evans, che sembra aver orchestrato una serie di attacchi all'antrace nel 2001. È successo anche con organizzazioni non statali qualificate. Il culto Aum Shinrikyo riuscì a ottenere gas nervino sarin e uccidere 14 persone, liberandolo nella metropolitana di Tokyo nel 1995. Fortunatamente, nessuno di questi attacchi ha utilizzato agenti biologici contagiosi, perché la capacità di costruire o ottenere questi agenti era al di là delle capacità di persino queste persone. I progressi della biologia molecolare hanno ora abbassato significativamente la barriera alla creazione di armi biologiche, ma serve ancora un'enorme quantità di competenze per farlo. Sono preoccupato che un genio in tasca a tutti possa rimuovere quella barriera, rendendo essenzialmente tutti un virologo con dottorato che può essere guidato passo dopo passo attraverso il processo di progettazione, sintesi e rilascio di un'arma biologica. Prevenire la sollecitazione di questo tipo di informazioni di fronte a una seria pressione avversaria, i cosiddetti jailbreak, richiederà probabilmente livelli di difesa oltre quelli normalmente integrati nell'addestramento. Fondamentalmente, questo spezzerà la correlazione tra capacità e movente. Il disturbato solitario che vuole uccidere persone ma manca della disciplina o dell'abilità per farlo sarà ora elevato al livello di capacità del virologo con dottorato, che è improbabile che abbia questa motivazione. Questa preoccupazione si generalizza oltre la biologia a qualsiasi area in cui è possibile una grande distruzione, ma che attualmente richiede un alto livello di abilità e disciplina. In altre parole, noleggiare un'IA potente da intelligenza a persone malintenzionate. Sono preoccupato che potenzialmente ci sia un gran numero di tali persone là fuori, e che se hanno accesso a un modo facile per uccidere milioni di persone, prima o poi qualcuno lo farà. Inoltre, coloro che hanno competenze potrebbero essere in grado di commettere distruzioni su scala ancora più ampia di quanto potessero prima. La biologia è di gran lunga l'area di cui sono più preoccupato, a causa del suo potenziale molto elevato di distruzione e della difficoltà di difendersi da essa, quindi mi concentrerò sulla biologia in particolare. Ma grande parte ciò che dico qui si applica ad altri rischi, come i ciberattacchi, le armi chimiche o la tecnologia nucleare. Non entrerò nei dettagli su come produrre armi biologiche, per ragioni che dovrebbero essere ovvie. Ma a livello generale, sono preoccupato che gli LLM si stiano avvicinando alla conoscenza necessaria per crearle e rilasciarle dall'inizio alla fine, e che il loro potenziale di distruzione sia molto elevato. Alcuni agenti biologici potrebbero causare milioni di morti se si compisse uno sforzo determinato per rilasciarli per la massima diffusione. Tuttavia, ciò richiederebbe comunque un altissimo livello di abilità, inclusi una serie di passaggi e procedure molto specifici che non sono ampiamente noti. La mia preoccupazione non riguarda solo la conoscenza fissa o statica. Sono preoccupato che gli LLM saranno in grado di prendere una persona con conoscenze e abilità medie e guidarla attraverso un processo complesso che altrimenti potrebbe andare storto o richiedere un debug in modo interattivo. Simile a come l'assistenza tecnica potrebbe aiutare una persona non tecnica a eseguire il debug e risolvere complicati problemi relativi al computer, LLM più capaci potrebbero essere in grado di consentire atti ancora più spaventosi. Nel 2024, un gruppo di eminenti scienziati scrisse una lettera mettendo in guardia sui rischi della ricerca e della potenziale creazione di un pericoloso nuovo tipo di organismo, la vita speculare. Il DNA, l'RNA, i ribosomi e le proteine che compongono gli organismi biologici hanno tutti la stessa chiralità che li rende non equivalenti a una versione di se stessi riflessa allo specchio. Ma l'intero sistema di proteine che si legano tra loro, il meccanismo di sintesi del DNA e traduzione dell'RNA e la costruzione e la scomposizione delle proteine, dipende tutto da questa manualità. Se gli scienziati creassero versioni di questo materiale biologico con la manualità opposta, e ci sono alcuni potenziali vantaggi di questi, come farmaci che durano più a lungo nel corpo, potrebbe essere estremamente pericoloso. Questo perché la vita mancina, se fosse creata sotto forma di organismi completi capaci di riproduzione, sarebbe potenzialmente indigesta a qualsiasi sistema che scompone la materia biologica sulla Terra. Avrebbe una chiave che non entrerebbe nella serratura di nessun enzima esistente. Ciò significherebbe che potrebbe proliferare in modo incontrollabile e soppiantare tutta la vita sul pianeta. Nel peggiore dei casi persino distruggere tutta la vita sulla Terra. C'è una sostanziale incertezza scientifica sia sulla creazione che sui potenziali effetti della vita speculare. La lettera del 2024 accompagnava un rapporto che concludeva che i batteri speculari potrebbero plausibilmente essere creati nel prossimo o nei prossimi decenni, che è un intervallo ampio. Ma un modello di IA sufficientemente potente potrebbe essere in grado di scoprire come crearlo molto più rapidamente e effettivamente aiutare qualcuno a farlo. La mia opinione è che, anche se questi sono rischi oscuri e potrebbero sembrare improbabili, l'entità delle conseguenze è così grande che dovrebbero essere presi seriamente come un rischio di primo ordine dei sistemi di IA. Gli scettici hanno sollevato una serie di obiezioni alla gravità di questi rischi biologici derivanti dagli LLM, con cui non sono d'accordo ma che vale la pena affrontare. La maggior parte rientra nella categoria di non apprezzare la traiettoria esponenziale che la tecnologia sta seguendo. Nel 2023, quando abbiamo iniziato a parlare dei rischi biologici degli LLM, gli scettici dicevano che tutte le informazioni necessarie erano disponibili su Google e gli LLM non aggiungevano nulla oltre a questo. Non è mai stato vero che Google potesse fornire tutte le informazioni necessarie. I genomi sono liberamente disponibili, ma come ho detto sopra, alcuni passaggi chiave, così come un'enorme quantità di know-how pratico, non possono essere ottenuti in quel modo. Ma anche alla fine del 2023. Gli LLM fornivano chiaramente informazioni oltre ciò che Google poteva fornire per alcune fasi del processo. Successivamente, gli scettici si sono rifugiati nell'obiezione che gli LLM non erano utili dall'inizio alla fine e non potevano aiutare con l'acquisizione di armi biologiche, ma solo con la fornitura di informazioni teoriche. A metà del 2025, le nostre misurazioni mostrano che gli LLM potrebbero già fornire un sostanziale miglioramento in diverse aree rilevanti. Forse raddoppiando o triplicando la probabilità di successo. Questo ci ha portato a decidere che Claude Opus 4 dovevano essere rilasciati con le nostre protezioni di livello di sicurezza IA3 nel nostro quadro Responsible Scaling Policy e a implementare salvaguardie contro questo rischio. Crediamo che i modelli si stiano probabilmente avvicinando al punto in cui, senza salvaguardie, potrebbero essere utili per consentire a qualcuno con una laurea STEM, ma non specificamente in biologia, di affrontare l'intero processo di produzione di un'arma biologica. Un'altra obiezione è che ci sono altre azioni non legate all'IA che la società può intraprendere per bloccare la produzione di armi biologiche. In particolare, l'industria della sintesi genica produce campioni biologici su richiesta e non esiste un requisito federale che imponga ai fornitori di vagliare gli ordini per assicurarsi che non contengano agenti patogeni. Uno studio del MIT ha scoperto che 36 fornitori su 38 hanno evaso un ordine contenente la sequenza dell'influenza del 1918. Sono favorevole allo screening obbligatorio della sintesi genica, che renderebbe più difficile per gli individui armare agenti patogeni, al fine di ridurre sia i rischi biologici guidati dall'IA che i rischi biologici in generale. Ma non è qualcosa che abbiamo oggi. Sarebbe anche solo uno strumento per ridurre il rischio. È un complemento alle protezioni sui sistemi di IA, non un sostituto. L'obiezione migliore è quella che ho visto raramente sollevata, che c'è un divario tra l'utilità teorica dei modelli e l'effettiva propensione dei malintenzionati a usarli. La maggior di parte è i singoli malintenzionati sono individui disturbati, quindi quasi per definizione il loro comportamento è imprevedibile e irrazionale. E sono questi malintenzionati, quelli non qualificati, che potrebbero trarre maggior beneficio dall'IA, rendendo molto più facile uccidere molte persone. Solo perché un tipo di attacco violento è possibile, non significa che qualcuno deciderà di farlo. Forse gli attacchi biologici saranno poco attraenti perché è ragionevolmente probabile che infettino l'autore, non soddisfano le fantasie in stile militare che molti individui o gruppi violenti hanno, ed è difficile colpire selettivamente persone specifiche. Potrebbe anche darsi che affrontare un processo che richiede mesi, anche se un'IA ti guida, richieda una quantità di pazienza che la maggior di parte degli individui disturbati semplicemente non ha. Potremmo semplicemente essere fortunati e movente e capacità non si combinano, in pratica, nel modo giusto. Ma questa sembra una protezione molto fragile su cui fare affidamento. I moventi dei solitari disturbati possono cambiare per qualsiasi motivo o per nessun motivo, e in realtà ci sono già esempi di LLM utilizzati in attacchi. L'attenzione ai solitari disturbati ignora anche i terroristi ideologicamente motivati, che sono spesso disposti a spendere grandi quantità di tempo e sforzi. Il desiderio di uccidere quante più persone possibile è un movente che probabilmente si presenterà prima o poi, e purtroppo suggerisce le armi biologiche come metodo. Anche se questo movente è estremamente raro, deve materializzarsi solo una volta. E con l'avanzare della biologia, potrebbe anche diventare possibile effettuare attacchi più selettivi, il che aggiunge un altro possibile movente, molto inquietante. Non penso che gli attacchi biologici verranno necessariamente effettuati nell'istante in cui diventerà ampiamente possibile farlo. Anzi, scommetterai contro. Ma sommando milioni di persone e qualche anno di tempo, penso che ci sia un serio rischio di un attacco importante. E le conseguenze sarebbero così gravi che credo non abbiamo altra scelta se non adottare misure serie per prevenirlo. Difese, questo ci porta a come difenderci da questi rischi. Qui vedo tre cose che possiamo fare. Primo, le aziende di IA possono mettere delle protezioni sui loro modelli per impedire loro di aiutare a produrre armi biologiche. Anthropic lo sta facendo molto attivamente. La costituzione di Claude, che si concentra principalmente su principi e valori di alto livello, ha un piccolo numero di specifici divieti categorici, e uno di questi riguarda l'aiuto nella produzione di armi biologiche. Ma tutti i modelli possono essere sottoposti a jailbreak, e quindi come seconda linea di difesa, abbiamo implementato un classificatore che rileva e blocca specificamente gli output relativi alle armi biologiche. Aggiorniamo e miglioriamo regolarmente questi classificatori, e generalmente li abbiamo trovati molto robusti anche contro sofisticati attacchi avversari. Questi classificatori aumentano sensibilmente i costi per servire i nostri modelli e quindi riducono i nostri margini, ma riteniamo che usarli sia la cosa giusta da fare. A loro merito, alcune altre aziende di IA hanno implementato classificatori a loro volta. Ma non tutte le aziende lo hanno fatto, e non c'è nulla che obblighi le aziende a mantenere i loro classificatori. Sono preoccupato che col tempo possa crearsi un dilemma del prigioniero in cui le aziende possono defezionare e abbassare i loro costi rimuovendo i classificatori. Questo è ancora una volta un classico problema di esternalità negative che non può essere risolto dalle azioni volontarie di Anthropic o di qualsiasi altra singola azienda da sola. Gli standard volontari del settore possono aiutare, così come le valutazioni e verifiche di terze parti del tipo effettuato dagli istituti di sicurezza dell'IA e dai valutatori terzi. Ma in ultima analisi, la difesa può richiedere l'azione del governo, che è la seconda cosa che possiamo fare. Le mie opinioni qui sono le stesse che per affrontare i rischi di autonomia. Dovremmo iniziare con requisiti di trasparenza, che aiutano la società a misurare, monitorare e difendersi collettivamente dai rischi senza interrompere l'attività economica in modo pesante. Quindi, se e quando raggiungeremo soglie di rischio più chiare, potremo elaborare una legislazione che miri più precisamente a questi rischi e abbia una minore possibilità di danni collaterali. Nel caso specifico delle armi biologiche, penso in realtà che il momento per tale legislazione mirata possa avvicinarsi presto. Anthropic e altre aziende stanno imparando sempre di più sulla natura dei rischi biologici e su cosa sia ragionevole richiedere alle aziende per difendersi da essi. Difendersi completamente da questi rischi può richiedere di lavorare a livello internazionale, anche con avversari geopolitici, ma ci sono precedenti in trattati che vietano lo sviluppo di armi biologiche. Sono generalmente scettico sulla maggior di parte ai tipi di cooperazione internazionale sull'IA, ma questa potrebbe essere un'area ristretta in cui c'è qualche possibilità di raggiungere una moderazione globale. Anche le dittature non vogliono massicci attacchi bioterroristici. Infine, la terza contromisura che possiamo adottare è cercare di sviluppare difese contro gli stessi attacchi biologici. Ciò potrebbe includere il monitoraggio e la tracciabilità per la rilevazione precoce, investimenti in ricerca e sviluppo per la purificazione dell'aria, sviluppo rapido di vaccini che possano rispondere e adattarsi a un attacco, migliori dispositivi di protezione individuale e trattamenti o vaccinazioni per alcuni degli agenti biologici più probabili. I vaccini a mRNA, che possono essere progettati per rispondere a un particolare virus o variante, sono un primo esempio di cosa è possibile qui. Anthropic è entusiasta di lavorare con aziende biotecnologiche e farmaceutiche su questo problema. Ma purtroppo penso che le nostre aspettative sul lato difensivo dovrebbero essere limitate. C'è un'asimmetria tra attacco e difesa in biologia, perché gli agenti si diffondono rapidamente da soli, mentre le difese richiedono che rilevamento, vaccinazione e trattamento siano organizzati rapidamente su un gran numero di persone in risposta. A meno che la risposta non sia fulminea, grandi parti il danno sarà fatto prima che una risposta sia possibile. È concepibile che futuri miglioramenti tecnologici possano spostare questo equilibrio a favore della difesa, ma fino ad allora, le salvaguardie preventive saranno la nostra principale linea di difesa. Vale la pena menzionare brevemente i ciberattacchi qui, poiché a differenza degli attacchi biologici, i ciberattacchi guidati dall'IA sono effettivamente accaduti nel mondo reale, anche su larga scala e per spionaggio sponsorizzato dallo Stato. Prevediamo che questi attacchi diventeranno più capaci con l'avanzare rapido dei modelli, fino a diventare il modo principale in cui vengono condotti i ciberattacchi. Prevedo che i ciberattacchi guidati dall'IA diventeranno una minaccia seria e senza precedenti per l'integrità dei sistemi informatici in tutto il mondo, e Anthropic sta lavorando molto duramente per fermare questi attacchi e infine prevenirli in modo affidabile. La ragione per cui non mi sono concentrato sul cyber quanto sulla biologia è che i ciberattacchi hanno molte meno probabilità di uccidere persone, certamente non alla scala degli attacchi biologici, e l'equilibrio offesa-difesa potrebbe essere più gestibile nel cyber, dove c'è almeno qualche speranza che la difesa possa stare al passo con l'attacco dell'IA se investiamo adeguatamente. Sebbene la biologia sia attualmente il vettore di attacco più serio, ci sono molti altri vettori ed è possibile che ne emerga uno più pericoloso. Il principio generale è che senza contromisure, l'IA probabilmente abbasserà continuamente la barriera all'attività distruttiva su scala sempre più ampia, e l'umanità ha bisogno di una risposta seria a questa minaccia.